Blue Radio. Blue Radio. SMS 346 23 20 033. Blue Radio. Blue Radio. Blue Radio Sera. Blue Radio Sera. Allora, nonostante sia la festa dei 150 anni d'Italia, siamo qui anche questa sera. Ciao Maurizio. Buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. Questa è la voce di Agostino Spolaore che appunto assieme a Maurizio Calzavara questa sera vi terrà compagnia con il solito consueto appuntamento del live del giovedì sera con la mia trasmissione e sempre assieme a Maurizio ovviamente. Questa sera avremo un gruppo di Bologna, ma prima di parlare di loro qualche dato tecnico. Questa è Blue Radio Veneto, la vostra emittente preferita in questo preciso istante. Oggi è giovedì 17 marzo 2011, sono le 21 passate da 2 minuti, quasi 3, anzi 3 in questo momento. Le nostre frequenze 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza. Il nostro sito, se volete sentirci in streaming, è www.blueradioveneto.it. C'è un rettangolino rosa, lì sotto c'è una freccia nera piccolina dove potete cliccando sentirci via streaming. Oppure anche vederci, perché se vi collegate sempre nella recensione nel sito del gruppo, in questo caso di questa sera, gli Horizons, c'è scritto diretta rockwave.tk appunto collegandovi cliccando sul streaming video. I nostri numeri telefonici in studio è lo 049 875 6423, ma siamo facilmente raggiungibili in studio anche con gli SMS, quindi il 346 23 20 033. Ho detto tutto. Abbiamo gli amici che ci sono venuti a trovare, Maurizio, questa sera. Io sono particolarmente felice perché in questo tempo ho stretto una bella amicizia con loro, soprattutto con uno dei due cantanti che si chiama... lo facciamo dire lui adesso. E che dire, benvenuti a Blue Radio Veneto. Ciao ragazzi! Ciao a tutti, ciao! Allora, sono gli Horizon, Maurizio, hai visto? Sì, sono gli Horizon, by Bologna, by direttamente Bologna. Da Bologna, esatto, senza acqua. Direttamente dal centro di Bologna siamo venuti qua. Senza acqua. Senza acqua, no, sì. Però, con un po' di acqua. Con un po' di acqua. Con un po' di acqua. Allora, abbiamo alla chitarra voce abbiamo Tommaso Stanzani. Esatto, ciao, ciao a tutti. Ciao. Al basso abbiamo Tommaso Avellini. Presente, ciao a tutti. Alla chitarra Marcello Garreffa. Anche qui, ciao a tutti. E poi abbiamo il mio amico, come dicevo prima, il famoso Max Messina. Ciao people. Batterista, nonché voce anche lui del gruppo. Ok, Horizons, secondo album, questo è il secondo album, autoprodotto totalmente. Siete usciti, vi siete allontanati dall'etichetta. Come mai avete deciso a fare questo passo? Volevamo un'indipendenza assoluta, al 100%. Sì. Abbiamo provato questa strada, è stato un po' un salto nel buio a dire la verità, però ha portato i suoi frutti. Siamo molto contenti, abbiamo lavorato sodo, abbiamo lavorato tanto, siamo stati veramente zelanti nel nostro impegno e in questo compito che ci eravamo prefissati. E volevamo anche esprimere noi stessi nel modo, diciamo, più naturale possibile. Noi siamo... così, siamo fatti così e volevamo metterlo in un disco e farlo sentire a tutti. Ecco, siete fatti così, volete metterlo in un disco. Cioè praticamente avete fatto un primo album ufficiale, cioè senza, non autoproduzione, cioè un primo album con etichetta praticamente. Esattamente. Esattamente. Poi avete deciso di fare un album più completo, più di gruppo, cercando di aumentare, di allargare le vostre sonorità. Esattamente, abbiamo provato a fare un lavoro ancora più intimo. Esattamente. Il primo è stato sempre nostro, ovviamente. Sì, doveva essere così, però era l'album iniziale. Esatto, e comunque è stato un po' guidato giustamente anche dalle persone che insomma erano intorno a noi, ecco. Certo, certo. Poi a un certo punto abbiamo detto, sai cosa facciamo? Sì. Adesso facciamo veramente sentire la musica che vogliamo fare, che vogliamo suonare. E abbiamo provato, e questo è il risultato. Senza contaminazioni. Esatto, esatto, esattamente. Senza alcuna contaminazione, esattamente. Esattamente, senza alcuna contaminazione. Cioè siete partiti dalle contaminazioni e poi avete deciso con quest'album che è appena uscito di fare cose vostre, assolutamente vostre. Cioè fare un percorso vostro praticamente. Esatto. Un percorso che è fuori da ogni altre caratteristiche per allargare i vostri orizzonti. Meno contaminazione, più musica vostra al 100%. Sì, sì. Perché questo passaggio, questo percorso da fare? Questo perché? Perché è una domanda un po' difficile questa. Mi prende è una domanda alla, che ha avuto delle numerose versioni. Volevamo essere in cinque a lavorare e basta. Ah, ho capito. Troppa gente non ci mette al nostro agio. È un po' come i tortellini, sono più buoni quelli fatti in casa. Bene, hai ragione. Bravo. C'era meno libertà, tra virgolette, forse. Sì, questo è purtroppo è uno dei problemi. Se ti vuoi esprimere al 100%, spesso lo devi fare da solo. O hai delle persone veramente che ti capiscono, oppure puoi incorrere in alcuni problemi. E quindi abbiamo, diciamo, voluto evitare una cosa del genere. Siamo in cinque, siamo cinque amici inseparabili. E tra l'altro, anzi, qua siamo in quattro. Esatto. Per cui volevamo salutare Luca, il tastierista, che è in aereo in questo momento, se non sbaglio, che sta tornando. Da dove sta tornando? Da una tournée. Da Germania. Da Germania, esatto. Quindi, insomma, eravamo in cinque, ripeto, inseparabili, e siamo rimasti tali. Ho capito. Casomai ci verrà a trovare in un secondo momento. Assolutamente, sì, quando sì, volete. Quando fate un altro disco, vi aspettiamo. Esatto. Tra un po' suona, guarda. Mi sa che ti conviene preparare il caffè, perché arriva stanco dal lavoro. Guarda, bene, le porte sono sempre aperte per queste cose, ci mancherebbe. Allora, che dite? Li facciamo già ascoltare qualcosina di loro produzione, Maurizio? Sì, certo, abbiamo deciso una scaletta precedentemente di far sentire un primo pezzo da disco, vero? Sì. Esatto, sì. Da disco. Che traccia abbiamo deciso di far sentire ai nostri ascoltatori? La prima traccia del nostro EP. Che si chiama? L'EP si chiama Elementi di Disturbo. Poi spiegheremo anche il perché l'abbiamo... E tutte queste persone che ci e sono. E tutte queste, tutti i nostri amici, diciamo, in quella foto. Tutti, di vecchia data, guarda. Allora, ci ascoltiamo Veleno? Assolutamente sì. Ok. Già subito partiti con un po' di rock, Maurizio? Sì, di solito, ma è bello che sia così, perché la gente deve muoversi, deve smuovere, e il nostro autore del pezzo, che sei te chiaramente, sì, hai deciso di smuovere la gente. Sì, allora mi assumo la colpa di aver scritto questo pezzo innanzitutto. Questo l'ho scritto io, diciamo, quasi per la totalità, diciamo, del pezzo. Innanzitutto ci terrei a dire che questo pezzo è in 7/8. Traduci per chi non è molto addentro alle cose. Sì, diciamo che si conta 7 e poi si ricomincia la battuta. Ah, ho capito. Quindi a Sanremo non andrebbe mai, per intenderci. Esatto, no, esatto. Infatti, l'abbiamo fatto apposta per non andarci, per non quindi andarci. Forse solo Elio hanno portato un pezzo dispari nel 96. Esatto. Sì, ma Elio lo poteva portare. Esatto. Noi dobbiamo mangiare ancora un po' di mortadella, mi non è detto. Speriamo, allora. Come dico sempre, ci sono molti emergenti che sono migliori dei big. Sì, su questo sono d'accordo. Quindi potremmo anche rientrare noi. Esatto. È un complimento che ci prendiamo. Sì, certo che sì. Beh, comunque diciamo che certe volte i pezzi vengono fuori da vari punti, nel senso, una volta vengono fuori dal testo, uno ha un testo che scrive, gli piace, lo vuole musicare, altre volte viene fuori una musica, appunto, che gli piace e ci vuole mettere il testo sopra. Questa è nata dal titolo, fondamentalmente. Io ho pensato, adesso voglio fare un pezzo che si intitola Veleno, e da lì ho pensato alla parola e mi è venuta in mente questa cosa. La musica e successivamente le parole. È stato un lavoro, diciamo, in solitaria. Però, insomma, è stato bello, è stato apprezzato dagli altri. Poi la cosa bella è che proviamo tutti, e quando, non so, uno ha un'idea, la porta in sala prove, e è bello sentire cosa ne pensano gli altri. Ecco, poi, insomma, se piace a tutti, ci si esalta, si comincia a provarlo ore e ore, il pezzettino, il passaggio, il testo, metti a posto, insomma. A me di solito fanno schifo i suoi pezzi. non è vero, tu menti sapendo di mentire. Basta, voglio uscire da questo studio. No, insomma, e quindi la cosa bella è che, anche se l'ho fatto io come pezzo, diciamo, in modo a livello di scrittura, sì, è sempre comunque, diciamo che siamo una cooperativa, noi, una cooperativa musicale. Tu hai detto che a questo a Sanremo non ci poteva andare, visto la dimensione. Però io dico una cosa, visto che questo pezzo dura circa 3 minuti ed è molto accattivante, si divora immediatamente, poteva andare a Sanremo, allora. Magari. Non è pronta per noi. Esatto. Questo è un altro par di maniche. Noi siamo troppo avanti per Sanremo. Però dicevo, con questo ragionamento, questo è un pezzo che si divora immediatamente. Accattivante, è una melodia che subito prende, è un pezzo che fa smuovere, e quello è il motivo. Sì. No, infatti siamo molto contenti di questo, anche perché, insomma, tanti amici ovviamente ci hanno preso il nostro lavoro nuovo e ci hanno fatto tanti complimenti praticamente per quasi tutti i pezzi, perché siamo andati un po' a toccare, penso, le sensibilità di tante persone. Quindi questo è un pezzo molto, molto rock, molto graffiante, accattivante. Ci sono delle ballate, ci sono dei pezzi, diciamo, che sfiorano un po' più il pop, altri che sono proprio dei lentoni molto romantici, e c'è anche sono anche pezzi come questi che, insomma, prendono veramente tante persone. Ok, queste 24 persone circa che si sono contato male, chi sarebbero nella copertina di questo disco? mi avete messo una curiosità. No, il problema è questo, che non avevo, siccome oltre a suonare la batteria, cantare, spazzare per terra, insomma, quello che si fa tutti i giorni, mi sono inventato il mestiere del grafico. Bene. Sì, infatti ho detto, vabbè, proviamo, visto che dobbiamo fare una cosa fatta in casa, ho detto, facciamo pure la grafica in casa. Ma il problema era come cercare un'idea per la copertina. A me piacciono le foto, ma soprattutto quelle del passato. Ho visto una foto a casa di parenti, ho detto, ma questi qua chi sono? Ma questi sono gente del passato di 400.000 anni fa. Ho detto, non ci verranno mai a chiedere i diritti su quella foto. Perfetto, no, perché la uso, perché dobbiamo creare un effetto elementi di disturbo. Infatti. Queste cinque facce strane, brutte, poi tra l'altro, sopra la copertina, sono quei cinque elementi di disturbo che sono vestiti in modo completamente diverso da come sono vestite le persone nella foto. Quindi, tipo Blues Brothers quasi. Tipo una sorta di Blues Brothers, tra l'altro non è stato fatto per niente apposta, è stato un gioco che è riuscito bene, certo, e l'abbiamo tenuto. No, perché mi hanno quasi quasi fatto un'idea, ho detto, ma ha messo 24 persone, ha scritto elementi di disturbo, vuoi vedere che hanno 24 persone che sono, che disturbano la loro produzione, che ne so. Potrebbe anche essere, potrebbe anche essere, più piccoli si è, meno sono le persone, potrebbero stare in copertina, guarda. Era solo un'idea che mi era venuta così, una semplice curiosità. Allora, questa è comunque radio, la vostra emittente preferita, la vostra radio preferita è Blu Radio Veneto, questa è la voce di Agostino, con Maurizio stiamo cercando di far conoscere il più possibile questi quattro, che poi in realtà sarebbero cinque, ma ci manca perché è in aereo, amici, più che musicisti, sono veramente degli amici di Bologna, che si chiamano Horizons. Beh, Horizons, questi orizzonti, orizzonti rocchettari o no? Sicuramente rocchettari, ma insomma... Abbiamo orizzonti di tutti i generi, è l'orizzonte che ci può far vivere fondamentalmente. Certo, noi assolutamente. Siamo, abbiamo l'animo rock, però siamo anche di gran romanticoni, per cui insomma ci barcameniamo insomma in queste due cose. In queste due anime praticamente. Assolutamente. Una cosa fondamentale è che voi amate molto suonare dal vivo. Sì, tantissimo. E quindi siamo qua apposta, no? Cosa dite? Ma guarda, casualmente abbiamo due chitarre, un basso e un po' di percussione. Potremmo farvi qualche cosa. Non era un playback? No, no, assolutamente. Cavolo, non sono preparato, sinceramente. Sai, mi ricordi un po' Francesco Di Giacomo del banco. Sì? Sì. Vabbè, la barba, la barba. Era un pochettino più ben messo, però anche tu. Anch'io sono molto. Sei ben messo, nel senso positivo. Il batterista deve dare sicurezza. Anche se lui non era batterista, faceva il vocalist. Il batterista deve... faceva solo il vocalist, però è bello. Sei... Il batterista dà sicurezza con la stazza pure, quindi chi mi guarda deve sapere che io sono più grosso di lui, quindi se scazzo sono affari suoi. Ci fate ascoltare qualcosa dal vivo allora? Sì, sì, cosa sì. Ci fate ascoltare? Allora, vi facciamo ascoltare la terza traccia del nostro nuovo EP, ovviamente, che si intitola 210. Ok. Check, volumi, ok. Che non andrà mai via e sarà l'ultima nota. Anche i campanellini. Radio Sera o Rockaway ha questa caratteristica fino all'ultima nota. Finalmente. Non si può tagliare nulla. Grazie, ecco. Grazie. Almeno ci siete voi. A me è piaciuto molto la voce in falsetto. Io amo particolarmente la voce in falsetto. Tu l'hai fatta. Grazie. E nella recensione abbiamo scritto che questo l'avete fatto in maniera assolutamente acustica, quindi sì, decisamente sì. Diversa dal disco. E nella recensione abbiamo scritto, non so se sei d'accordo, che ha una certa dimensione progressive nell'inizio del pezzo. Io sì. L'ho sentita così. Perché il progress, bene o male, sia dentro nel vostro DNA, sia pure un po' meno rispetto all'album di esordio. Sì, sì. Perché? Allora, volevamo fare qualcosa di diverso in questo album, non so se ci siamo riusciti, sì. Però di sicuro ci siamo appassionati a farlo. Sicuramente in questo pezzo ci ha aiutato il nostro assente di questa serata, che è il nostro, Luca. Quello che vola in aereo. Esatto, quello che vola in aereo. Che ci ha dato quel tocco che secondo me forse è quello che ha fatto sentire un po' la nota. Ho avuto questa idea. Sì, questa. Esatto, ha avuto quest'idea. È stata, penso, una folgorazione quando l'abbiamo poi provato. Quando poi l'abbiamo provato in versione rock, ovviamente, certo. Per provarlo e metterlo nel disco. È stato proprio bello quando suoni e hai una bella sensazione dentro di benessere, per dire. Quello allora era la parte giusta e l'abbiamo tenuto, ovviamente. Certamente. Poi a me è piaciuto molto. Adesso, in questo momento, tu hai fatto queste variazioni con la chitarra acustica, hai corollato, hai dato un colore al pezzo. Chiaramente non abbiamo le tastiere, non abbiamo altri strumenti, sì, abbiamo sì. La chitarra acustica, questa era fondamentale, seguita dal basso e da un'altra chitarra e dal nostro batterista in versione ridotta stasera, ma anche la ritmica. Però c'è una gran batteria. C'è una gran batteria, la è ritmica. Piccolina, sotto massiccia. Il sedere ha una grande batteria. E poi è anche rinforzato. È anche rinforzato. È la mamma, la mamma. Il cuscino della mamma di Tommy non si tocca. Quindi è fondamentale. Il falsetto è importante, perché non è facile cantare in falsetto, è difficile. No, io... Dici di no. No, nel senso, io canto da quando sono bimbo, canto, e mi sono molto appassionato al falsetto, perché è una dimensione che non hanno poi tantissimi. No. Io mi sono trovato molto bene in questa dimensione. Penso di riuscire a dare un po' di colore in più alle cose che faccio, e mi caratterizza molto, più che altro. Io non saprei come fare poi senza il falsetto, perché è proprio una caratteristica. 2-1-0 per esempio, e poi comunque nel nostro acustico, nella nostra versione acustica, lo utilizzo particolarmente. Il falsetto l'ho scoperto tanto tempo fa, tra l'altro, e grazie poi anche alla mia insegnante, che mi ha detto: ah, ma tu hai anche un bel falsetto, potresti, insomma, mi sono appassionato fondamentalmente, per cui mi piace fare questi salti a destra manca, insomma. Ti sei ispirato a qualcuno, Tommaso? Ma sinceramente no. Poi ho scoperto che c'erano altri cantanti che erano così, no, però l'idea è stata comunque mia, una mia scelta è stata. No, pensavo che ti piacessero i Bee Gees, per esempio. No, gliel'ha insegnato lui ai Bee Gees. Ecco, sì, quello, sì, però esatto. La cosa. Ma anche Giuliano Di Negramaro mi ha telefonato un giorno, mi ha detto: guarda, io devo cantare in modo diverso, usa il falsetto, lo uso sempre. Non so se lo conosci, anche Aaron Neville, un tuo allievo. Esatto, sì, mio allievo, sì. Grazie, è vero, un mio allievo, anche lui, bravino, sì. Sono tanti i cantanti che cantano in falsetto. A me piaceva molto poi questo modo. Poi negli anni 70-80 c'erano veramente tantissimi di gruppi, come gli Stylistics, per esempio, mi vengono certo, in mente. Certo. In Italia c'è Mango, che è molto bravo a far questo. Sì, o generale, i cugini di campagna. Sì. Beh, anche quelli, sì, indubbiamente anche quelli. Beh, cioè, parlando di band. Anima mia, quanti falsetti ci sono in Anima mia. Ok, vabbè. Bene, allora, continuiamo a chiacchierare oppure ci vogliamo far sentire qualcos'altro? Avete voglia di suonare? Ma abbiamo voglia di suonare o di chiacchierare? Abbiamo voglia di suonare. Sì, ma che chiacchierare? Non siamo mica buoni noi a chiacchierare. Chiacchieriamo dopo davanti a una birra, una ecco, cosa ecco, diversa. Ecco, sì, sì, sì. Poi insomma siete venuti qua per farvi ascoltare, farvi sentire. Sì, sì. Cosa ci fate ascoltare adesso? Vi facciamo ascoltare un altro brano tratto dal nostro secondo lavoro, che si intitola Come lei. Ok. Thank you. avrò un'idea. Cosa dire? Dovrei dire molte cose. A me interessava molto, oltre il pezzo era molto bello, molto californiano secondo me nei momenti. Ah, questo californiano, due, non ce l'avevano mai detto. Questo costiano all'inizio, questi due voci che si intervallavano, il batterista e la chitarra solista. L'idea di questo coro, queste voci unite, com'è nata, Tommaso? È nata perché non possiamo fare a meno di fare cori, fondamentalmente, nel senso che comunque io e Max, vabbè, a parte che ci conosciamo da quando abbiamo 15 anni, quindi è nata davanti alle merendine, praticamente. Sì, praticamente, abbiamo cominciato a suonare da quando eravamo dei cinni, come si dice a Bologna, no? Certo. Per cui, insomma, da lì è sempre nata, uno cantava, l'altro gli faceva il coro. E siamo un po' rimasti anche nel primo album in particolare c'erano tantissimi cori, sì, che vero. Infatti ci avevano anche suggerito e curato le persone che appunto insomma abbiamo deciso di le persone che giravano quelle persone che giravano, ecco. E, però è rimasto comunque la grande voglia di armonizzare le nostre melodie, e insomma adesso poi siamo in due, però c'è anche Luca che fa anche lui le terze voci, per cui insomma quando si sente un live, quando facciamo un live al completo, si sentono non due ma tre voci, per cui insomma siamo molto legati a questo. E l'idea del pezzo, come nasce un pezzo degli Horizons? Non so, tu fai un giro di accordi alla chitarra, lui al basso, Max con la batteria, il tuo nome non mi ricordo mai, Marcello gira anche lui con la chitarra, Luca con le tastiere. Come nasce il pezzo? Fisicamente come nasce? Fisicamente nasce veramente in svariati modi, perché come per veleno è nato dal titolo, e a un certo punto capita che facciamo le prove e uno dice: ragazzi, questo è il giro, adesso ve lo faccio sentire. Fa sentire, gli piace a Max. A me continua a fare schifo comunque. Sarà segno le dimissioni. Ma. Max è molto critico, però è una critica costruttiva. No, scherzo. Partono veramente così i pezzi. Sì, okay. Sì. Io vi stavo per chiedere come va l'unione tra di voi. Benissimo, guarda, benissimo. Li amo tutti. No. No, la cosa bella comunque è che è sempre un completare qualcosa di qualcun altro. Quindi in questo caso specifico abbiamo ideato un giro di chitarra partendo da un'idea, da un'emozione, e qualcun altro ha messo il testo, quindi certo, trovando le parole giuste che all'altro mancavano. Quindi un accordo democratico. Sì, assolutamente. Per fare proprio l'esempio di questa canzone, l'arpeggio iniziale era suo, le parole erano sue, il resto della... Sì, praticamente, scusate, io parlo come se fossi a casa mia davanti a no, nessuno. Abbiamo capito, beh, stanno vedendo come le... fossi a casa tua. Effettivamente è vero, no, l'arpeggio... riformulo la situazione, l'arpeggio era di Marcello, effettivamente. Le parole erano di Tommaso, il restante della band ha fatto il contorno. Non è mica poco. Perché effettivamente da un'idea che di base c'è sempre, fondamentalmente... Il restante della band è fondamentale per legare. Per legare quelle idee che solitamente sono un po' più staccate. Quindi ognuno di noi parte in qualche modo con un'idea, un qualcosa di diverso. Poi il restante della band che cambia ogni volta, perché certo, posso partire io, può partire un altro. Il restante lega. Dobbiamo dire una cosa fondamentale: il bassista che parla poco e non parla mai. È muto. Ma il bassista, il basso è la cosa fondamentale in tutte le band. Cosa mi dici? È fondamentale nelle basso band. Insieme alla batteria è fondamentale. Infatti, con Massimo. Siete vicini per quello. Uno completa l'altro, insomma. Esatto, ci completiamo e la parte ritmica è fondamentale. Non possiamo più vivere separati, praticamente. Tu adesso diglielo che te ne vai in America e mi lasci da solo. Me ne andrò via per 6 mesi, però a ottobre tornerò. No, non ti preoccupare, abbiamo già rimpiazzo, grazie. Anche questa è democrazia, assolutamente. Sì, sì, come vedi ci amiamo. Beh, è bello così comunque. Siete molto amici, mi sembra, sì, di aver capito. Sì, sì, sì. Bene, bene. Allora, io so che voi tra l'altro comunque siete... grandi amici e musicisti, ma ognuno o quasi ognuno ha delle altre ramificazioni, chiamiamolo così, musicali. Sì, sì, diciamo che c'è in una vita in cui suoni, comunque crei quello che c'è all'inizio, quello che ti fa partire praticamente, che ti fa diventare musicista, e lo crei insieme a degli amici importanti con i quali poi altro che Pooh. Noi siamo la band più longeva del mondo, tutti dicono dei Pooh, ma che non ci conoscono, questo è il fatto. Noi dimostriamo 28-30 anni l'uno, ma ne in abbiamo realtà... 80-90 comunque, ecco. Che cioè, ci siamo presi una roba per una roba per andare a parte gli scherzi. No, il problema è che tu hai sempre voglia di suonare, quindi qualcosa la crei con il tuo gruppo principale con il quale parti. Certo. E poi... come tutte le cose, comunque fai delle esperienze con altri che ti permettono di allargare le tue conoscenze, di tirare dentro anche band con band, creare dei concerti più grossi, di darsi una mano comunque, perché il mestiere del musicista non è facile. Quindi sia per passione, soprattutto per passione, fai tante cose, militi in tante situazioni, però lo fai anche perché crea legame tra le varie band. Una cosa molto bella del panorama bolognese, che comunque c'è una forte legame fra i vari gruppi emergenti, che salutiamo, sì, che sono tutti amici più che colleghi, tra virgolette, musicisti. Puoi fare nomi se vuoi. Sì, beh, guarda, conosciamo con cui abbiamo fatto dei live anche, tra Giovanni Marinelli, Vincenzo Pastano. Quello lo saluto anch'io, Vincenzo. Ciao, Vincenzo. Massimiliano Martinez, tanti altri artisti che non so se. Silvia Falivene, artisti che stanno uscendo attualmente con degli album che sono veramente dei capolavori. Tenetevi in mente, cari ascoltatori, questi nomi, perché un paio credo di portarveli qui a farveli sentire, tipo Vincenzo Pastano, che già mi ha detto sì, ok, vengo con il disco nuovo. Bene. E poi parlavo con Tommaso poc'anzi e qualche minuto fa mi diceva appunto di Silvia. Sì, esattamente. Che vediamo di rivedere Tommaso appunto assieme a lei, che tra l'altro mi piace molto, l'ho già sentita su YouTube qualche canzone. Sì, Silvia è assolutamente una cantante formidabile, penso che sia una delle cantanti che mi piace di più. Secondo me ha un timbro vocale stupendo, una tecnica impressionante, sì. Anzi, ci terrei anche a pubblicizzare un attimo, certo, perché il 17 di aprile suonerà al Wolf di Bologna, dove presenterà il suo ultimo lavoro, farà uno showcase e insomma, quindi facciamo anche in bocca al lupo, ecco. Silvia, ti saluto, siamo diventati amici oggi. Allora un saluto carissimo a Silvia, che spero verrà con Tommaso qui in studio, insomma. Sì, dobbiamo ringraziare come sempre la Chiara, che sta facendo dei salti mortali anche con la webcam stasera, quindi fa anche l'operatrice del webcam, grazie. Oltre alla fotografa, e il nostro direttore artistico, che è Alberto Prisco, che organizza sempre tutti i concerti e organizza queste trasmissioni. Ci ascoltiamo qualcosa dal vivo adesso, oppure volete un qualcosa dal primo disco? Facciamo un qualcosa dal primo disco. Cosa okay. Avevi scelto in scaletta? Alba. Avevamo scelto Alba. Facciamo ascoltare Alba. Alba. Thank you. sceso da poter toccare il cielo con un dito, scaldandomi con te. SMS 346 2320 033. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E ritorniamo in diretta qui con gli Horizon, con Agostino Spolore, con Maurizio Calzavara, a sentirli suonare, parlare, conoscere, insomma. Sì, i ragazzi, cioè, probabilmente con la web, quando hanno visto i nostri ascoltatori, erano pronti con l'attacco del pezzo, tutti pronti per... Tac, e l'attacco è arrivato. Ma sì. Quanto mancava qualche secondo all'attacco? Non perdo mai l'occasione per fare il pagliaccio. Perché non è mica il pagliaccio, questo è un feeling, cioè la cosa che rimane dentro, bene o male, guarda un pezzo vostro. Insomma. Sì, sì, infatti sì, noi sì. Sempre orgogliosi dei nostri pezzi. Appunto, così. Quello è importante, mai rinnegare il passato. Si può allontanare il passato, ma non rinnegarlo, perché i pezzi erano vostri, giustamente. Giusto, era sudore di tutto. Praticamente, esatto. Ore e ore per costruire. Vi Dimmi. Porto i saluti dalle Marche. Dicono: siete grandi, Horizons, continuate così. Dalle grande. Marche, che è la mia terra natale. Ah, ecco. Abbiamo bene, gli bene. Intrusi dappertutto che girano, le spie vanno, schiacciano, fanno finta di. Allora, io lo ricordo ancora il numero per mandarci i vostri sms per appunto gli Horizons, è il 346 23 20 033, potete chiedere quello che volete, loro sono qui a vostra disposizione. E la scaletta live, come qui abbiamo fatto una scaletta assolutamente acustica, yes. Ma dal vivo, cioè davanti al pubblico, come fate i pezzi? Fate un po' più elettrici o in questa dimensione acustica melodiosa rimane? Allora, per forza di cose siamo diventati abbastanza versatili, nel senso che quando riusciamo a trovare un locale che ci fa suonare rock, andiamo con tutte le chitarre elettriche e distorsione a 10. A 10? A 10, assolutamente. Da spaccare tutto. Da spaccare i timpani, esatto. E invece ci sono tanti altri locali che insomma ti fanno suonare, però diciamo in versione acustica, semiacustica, non portate troppe cose, non troppe chitarre elettriche, troppa batteria. Non portate la batteria. Non portate la batteria. Va bene, io vengo da solo, mi metto lì, mi siedo e sto fermo, guarda. Ma Max che... cosa fa se senza batteria? Lui si beve una birra. No, tranquillo. No, poverino, soffre tanto per questa cosa e noi lo capiamo, in effetti. No, ormai ho imparato a conviverci, guarda. Sì, bene. Hai elaborato il dolore. Sì, sì, sì. No, quindi diciamo che ultimamente soprattutto abbiamo riarrangiato tutti i pezzi che poi portiamo in live in versione semiacustica. Adesso questa sera abbiamo fatto una versione diciamo ancora più acustica, anche perché non abbiamo la tastiera, abbiamo solo diciamo il caon e qualche cosina. Però comunque nei locali facciamo con chitarre elettriche, chitarre acustiche, la batteria magari più piccola, però comunque riusciamo a dare un po' di volume e un senso logico comunque a quello che si ascolta rispetto a quello che si sente dal disco. Ho capito. Cioè l'anima del pezzo rimane sempre la stessa e se uno sente veleno per esempio, sì. Da disco dice pezzo potente. Se la sente fuori dice, cavolo, però bella anche così. Nel senso, si riesce a trovare veramente l'anima da tutte le parti. Diciamo che abbiamo fatto di necessità virtù, scoprendo anche questa anima, questa dimensione. Tu parlavi del discorso di Bologna, che ci sono tanti gruppi, c'è un bel fermento, quindi anche i locali, no? Un po' meno, lo so che è un solito tasto dolente. Una volta si suonava tanto a Bologna, anche noi comunque, noi siamo nati sì come degli scrittori, tra virgolette, Però scrivevamo, ma meno, perché ovviamente eravamo un po' più timidi, quindi siamo nati come cover band. Sì. 10 anni fa si suonava veramente di più a Bologna, ma tanto di più. Adesso si sono dimezzati un po' i locali. In tutta Italia è così. Comunque. Però fortunatamente qualche realtà bella ancora c'è, come alcuni locali in cui ci si trova, diciamo, noi musicisti. Al di là di Vasco e Liga, c'è anche la musica dei musicisti indipendenti. No, più che altro è importante che i locali attualmente diano spazio a degli artisti che scrivono, perché c'è sempre poco spazio per far sentire. Infatti ringraziamo proprio Agostino per averci dato la possibilità di farci sentire in un'emittente radiofonica live con questa qualità, con questa qualità. Sì. Grazie, onorato di queste parole. Siamo tutti onorati, ovviamente. Dobbiamo ringraziare anche Alberto, che è anche lui che è sempre in mezzo a, soprattutto lui che cerca principalmente molti artisti, insomma. Grazie anche per la recensione che ci hai fatto Maurizio, perché facciamo parte della noi è la redazione. Grazie a tutta la redazione di Veneto. A proposito di dati tecnici, ne approfitto per invitarvi a dire dove si trova il vostro disco, dove si trova il vostro sito, qualcuno se vi vuole contattare. Assolutamente sì. Allora, intanto abbiamo il nostro sito internet, che è www.horizonsband.com. E quindi io ho sempre sbagliato fino adesso a dire Horizon. È uguale. Va bene lo stesso, te lo concediamo. Ci puoi chiamare anche gli orizzonti. Gli orizzonti ci puoi chiamare, esatto. Comunque www.horizonsband.com. Siamo anche su MySpace, ovviamente, dove si possono ascoltare alcuni pezzi in streaming, che è www.myspace.com/horizonsband. Siamo ovviamente anche su Facebook, Horizons HZ. E per avere i nostri lavori ci mandate una mail se siete interessati. Se andate nel sito, se andate su Facebook, se andate su MySpace, ci potete contattare tranquillamente e noi vi rispondiamo nel più breve tempo possibile. Citofonate al campanello di casa mia, esatto, insomma, sì. Stanzani Avellini terzo piano, fate quel che vi pare. E quindi se vi vogliono acquistare qualche disco, basta che vi scrivano, insomma. Sì, assolutamente. Semplicissimo. Dal produttore al consumatore. Poi siamo in saldi in questo periodo, quindi approfittate. Diamo via pure un terzo album che non c'è. Faremo pure un album, un bootleg con questa versione radiofonica. E che foto ci metti? La tua. Ah, grazie. grazie mille, Max. Allora, ci ascoltiamo qualcosa dal vivo ancora adesso? Molto volentieri. Cosa allora, ci fate ascoltare adesso? Vi facciamo ascoltare un brano tratto dal nostro primo album, che è la title track, si dice, no? Sì. Che si intitola appunto Cerchi. Ok. Respiro lento, ma quel che cerchi è ancora qui. Alzi lo sguardo e pensi una magia così, non la trovo più. Mi cerchi ma non mi ascolti, la tua fantasia non ha limiti. Io provo a fermare il tempo ma è inutile, ormai te ne andrai. Cerchi di nuovo amore, cerchi di nuovo amore, ti stendi ma è la tua ombra quella che vorrei. Il vuoto che lasci dentro è grande, immenso e oscuro, proprio come te. Mi abbandono ai sensi e le tue labbra non mi bastano. Chiudo gli occhi e spengo ogni cosa che ricorda te. Cerchi di nuovo amore perché non resti qui con me. Ti appoggi in quel calore che ancora adesso vive in te. Questa mi piace tantissimo, ragazzi, bravi, veramente un applauso, ve lo meritate, perché è stata veramente molto ma molto bella questa. Grazie mille. Questa canzone. Grazie. Vi devo confessare che mi piace anche Stelle Relative in questo disco. Sì, se vuoi Marcello ti spiega da cosa è nato. Sì. Intanto noi ce ne andiamo perché non lo sappiamo nemmeno noi cosa sia. Anche perché, non so se ve lo se la ricordate, Barbara, la Barbara mi ha proposto il vostro nome, sì. La Barbara Scardilli. Sì, Barbara, ma che salutiamo. Che tra l'altro sì. Ci ha fatto anche lei un'intervista bellissima. Esatto, lo so, infatti la saluto caramente. Mi diceva, guarda che a me piace, infatti poi quando... l'ho ascoltata e che poi ci siamo contattati, Max, era proprio quella sì. che mi aveva colpito molto, era Stelle Relative. Mi ricordo, molto Pink Floydiana. Sì, sì, ce sì, l'hai sì. Anche tu questa passione per i 70, 60. Eh beh, insomma, vengo da quegli anni. Io sono nato negli anni 70-80 con la radio. Ti abbiamo inquadrato, infatti, mannaggia la miseria. Sì, è vero. Com'è che è nata sta canzone, Adei? Allora, me la vuoi raccontare, Marcello? So che è tua, giusto? È grazie, tua? Ci hai fatto un regalo incredibile. A tutti i telespettatori, ascoltatori, radioascoltatori, noi non sappiamo quello che Marcello adesso dovrà dire. Sono tutti cavoli suoi, grazie per aver scritto questa splendida canzone, prego. Ma niente, è nata innanzitutto da una collaborazione, lui lo nega, ma tra me e Max... Io non c'ero. E niente, ho scritto questo testo... cercando di spiegare una sensazione che in quel momento provavo e la musica mi ha dato una mano in un senso proprio terapeutico, vogliamo dire, delle emozioni che difficilmente si riesce a tirar fuori in altra maniera. E quindi ho sottoposto al gran consiglio degli Horizons questo mio testo ed è stato, diciamo, tradotto in una canzone con musica annessa. In questo caso io sono partito dal testo e loro mi hanno dato una mano con la musica. È tra altri pezzi è successo diversamente, grazie sì. Comunque diciamo che Stelle Relative noi la consideriamo la chiave di volta che unisce il primo lavoro al secondo, perché Stelle Relative è quella tra l'altro poi è stata messa come ultima dell'album, certo. Non perché è la più brutta, ma perché è quella che ci piace di più a noi, ma soprattutto per il fatto che è l'unione tra il primo e il secondo album, cioè quella più simile al genere nuovo che poi è il nostro prima del primo album, cioè senza contaminazione. Certo. Quindi è molto particolare ed è molto importante essere relativo. Io con le dovute proporzioni, ovviamente, se mi passi una frase. Prego, prego. Ho trovato qualche attinenza con i Pink Floyd. Può essere, come sonorità, parlo. Sì, diciamo sì, che sì. Gli slide iniziali ricordano molto. Vero? Gilmour. In Icos. Infatti quando l'ho ascoltato, cavolo, ho detto, senti che bella questa canzone, veramente. Poi a me piace tantissimo, veramente. Ma usciamo tutti da quella scuola, praticamente. Come non... Chiedi a Maurizio se non esci da quella scuola, Maurizio mi sa che c'è rimasto proprio sotto, cioè, la lacrimuccia è ancora lì con la lacrima, noi lo vediamo piangere attualmente. Sai, la scuola, a me di Pink Floyd piace particolarmente un album che si chiama Atom Heart Mother, perché Atom Heart Mother è forse una generazione un po' diversa dalla vostra, siete molto più giovani di me, che Atom Heart Mother rappresentava il dopo Syd Barrett, praticamente appena finito Syd Barrett, era l'album che loro hanno rifiutato, non piace ai Pink Floyd, almeno quelli rimasti, Atom Heart Mother. Io non so il perché, io so solo che If è uno dei pezzi più belli che abbiano mai scritto. Sono 4 minuti e 50 di soavità unica. E Atom Heart Mother è una suite meravigliosa, il famoso album della mucca. Tutti sì, ricordano sì. La mucca atomica, sì, Atom Heart Mother. Mm-hmm. E questi, i Pink Floyd, sì, sono il substrato di molte band, comprese la vostra, però io sono più vicino al progress da parte vostra che non ai Pink Floyd, a mio parere. Sì, sì, sì. Non sì, sento sì, più progress il vostro suono, anche chiaramente nei dovuti rispetti, però lo sento più progress. E i Pink Floyd non erano progress, secondo me. Erano Pink Floyd e basta. Noi infatti ci siamo esatto. Comunque portati dietro una cover che facciamo spesso live, che è Impressioni di Settembre. Wow, ecco, vedi. Proprio vedi. per dare un in acustico la fate? No, magari ci serve la tastiera lì. Perché è lui che fa tutta la canzone, la fa lui, il synth, le cose che ci sono. Allora segnati che per la prossima volta che mi la prossima volta apriamo con questa canzone, ti giuro. Cioè, dovevamo fare un omaggio a una band che ci ha comunque caratterizzati insieme a tante altre, certo. Però una band particolare, una band che ha creato tanto, tanto per l'Italia, per il mondo intero, per la musica, ha dato tanto, continua ancora a dare. Comunque la PFM è importantissima per noi. Sono d'accordo con te. Abbiamo preso un po' di prog della PFM con tutte le dovute precauzioni, certo. E con tutto il rispetto per la PFM, cioè noi non siamo minimamente con molta umiltà, con molta umiltà, veramente. Ma il prog è una cosa positiva, non è una cosa sì, assolutamente. Riveduta corretta da parte vostra, non è che è riveduta corretta, prendete qualche spunto, qualche inezia, sì. Così e basta. Da qui altro. Anche il titolo che Tommaso potrà spiegare del secondo lavoro, cioè questi elementi di disturbo che comunque vogliono inserirsi in un contesto un po' più pop, se vogliamo dire. Noi cerchiamo di infilarci degli elementi di qualità, certo, che certo. Nel prog ci sono. Indubbiamente sì. Complimenti al gruppo di stasera, bravi e anche belli, vi sto vedendo in streaming. Chi è? Non si è firmato. Puoi dare il numero di telefono che provo a ricontattare? Va bene, poi c'è, questa però è di parte, però è della vostra città, dice Horizon, siete grandi, con tantissimi i, ciao da Bologna, zona San Lazzaro. Zona San Lazzaro? Sono cavoli perché mi sa che è mio padre. No, non dirlo, dovevi dire è una mia fan, mi segue sempre. Ma mio padre è la mia fan più grande, questa è la cosa bella. Quello è il problema. Ciao papà. Allora. Va bene, sono le 22.03, Blu Radio Veneto con Agostino Spolaore e con Maurizio Calzavara, e stiamo ascoltando la voce, le voci anzi, di questo gruppo bolognese che si chiamano Horizon o Horizons o Orizzonti, chiamateli come volete, sono sempre comunque loro, quattro simpatici amici, in realtà ne manca uno, sarebbero cinque, ci manca Luca Basili, il tastierista, ma però verrà a trovarci la prossima volta che verranno qui da Bologna ancora. Ci fate ascoltare qualcos'altro adesso? Ma perché no? Ma perché la grande. Alla grandissima. Siamo venuti qua per suonare. Certo. Allora, abbiamo pagato il biglietto, perciò potete cosa ci fate adesso? Allora, ritorniamo al secondo album. Facciamo il brano, dovrebbe essere l'ultimo brano, se mi ricordo, dell'album, ma non per importanza, non per poca importanza, che si intitola Stereotipi. Ok. Radio Veneto. Thank you. accanto a me. E chiedi la voce, liberando il tuo vissuto ego. Tu lo sai, forse sarò nella tua mano, come creta la mia mente. Wow, che bello questo finale. Poi me lo rifate ancora, vero che me lo rifate? Bellissimo. Certo, se vuoi te lo faccio, possiamo fare anche lunghissimo. Bellissimo. Allora, saluti da Michele di Padova e saluti anche da Roberto che vi dice bravi, bravi, bravi, tre volte bravi. Grazie, grazie, grazie, grazie allora. Bellissimo questo pezzo, veramente. Grazie. Com'è che faceva 30 secondi? Dai, via, via. Ancora? 30 secondi, dai, 30 secondi, ce l'ho fatta. Thank you. che meraviglia, Maurizio. Eh? Sì, come mettere in è come mettere giustamente in difficoltà tutti i DJ, perché questo pezzo aveva un andamento, poi gli ultimi 30 secondi un andamento totalmente diverso. Allora ci buttiamo, ci gettiamo nella psichedelia nei fine anni 60, inizio anni 70. Questo è l'elemento di disturbo. È bello, questo è l'elemento di disturbo. Quindi basso, batteria, due chitarre, e poi Marcello che faceva, giocava col dobro, quella stinghita, bellissima cosa. Bravi, veramente bravi, bravi, ve lo dico anch'io, insomma, è veramente un pezzo. Abbiamo tempo, Marcello, non ti preoccupare. Io vorrei restare guido dalla sera. Abbiamo tempo, guarda l'orologio. Possiamo mettere indietro l'orologio? Sì, hai visto quando si sta bene in compagnia, hai visto come passano velocemente? È vero, assolutamente sì. Bello, bello, molto interessante, vedi, dal vivo queste robe qua sono giuste, sono belle, sono interessanti, scatenano il pubblico. Noi siamo un pubblico ridotto, ma siamo sempre un pubblico. Assolutamente, certo. Una cosa interessante, questo Marcello ha le corde, la chitarra, mi pare siano corde queste cose. Sì. Non si sa mai. Esatto, da convulsista serio ha le corde davanti. In anni e anni di live abbiamo rotto chitarre, batterie, rullanti, bassi, di tutto. Qualsiasi cosa, veramente. E cambiare le corde in diretta è una cosa meravigliosa, l'ho visto più di una volta. È bello, in ogni caso. Invece sono uno sprovveduto, non ho niente. E non cambio le corde da 3 mesi, se lo volete proprio sapere. Infatti se gli si rompe una corda, poi gli sbattiamo la chitarra in testa. Ve lo lasciamo qua, appeso, crocifisso. Allora, vi ricordo ancora il nostro numero di cellulare se volete mandare qualche messaggio agli Horizons: 346 23 20 033 per chiedere, dire, fare quello che volete a questi quattro amici che sono venuti a trovarci dalla città di Bologna. Agostino e Maurizio sempre qui a Blu Radio Veneto, sono le 22:11 di questo anniversario di 150 anni dell'Unità d'Italia. Siamo in diretta, come potete vedere, quindi non siamo staccanovisti, non abbiamo assolutamente voluto mancare a questo impegno, anche se è festa. Siamo qui a regalare queste emozioni live a questi quattro amici, insomma, degli Horizons. Cos'è il settimo trofeo Wolf che avete vinto a Bologna l'anno scorso? Abbiamo vinto il premio del pubblico. Sì, perché erano tre premi comunque separati, abbiamo vinto il premio del pubblico. Prego, racconta questa epopea. Bellissima. È stata una grande emozione perché il Wolf a Bologna è molto famoso, è un locale molto bello, fanno suonare tanti gruppi. Mai cover band soprattutto. Ah, esatto, importante. Questa mai è la cover cosa band, importante. Esatto. Quindi tantissimi gruppi, solisti, comunque che vengono a proporre i loro progetti. Quindi è proprio anche culturalmente, secondo me, molto valida questa cosa. Perché vorrei sottolineare che comunque cioè, la musica è anche cultura. Quindi assolutamente questo cultura. Per noi è assolutamente fondamentale. Questo. Certo. In ogni caso abbiamo fatto questo trofeo appunto al Wolf e finalmente eravamo entrati, siamo piaciuti. Partito un po' per scherzo poi, perché dovevamo presentare l'album e ho detto, sai che c'è, facciamo la data di facciamoci sentire, esatto. Come va tanto. Per cui insomma siamo andati lì, abbiamo cominciato a suonare, siamo piaciuti, la gente ci votava e siamo andati avanti con le selezioni. Insomma, all'ultima serata c'era un sacco di gente a vederci, sono stati molto contenti tutti, insomma ci hanno votato e li ringraziamo tutti quanti dal primo all'ultimo. Assolutamente sì, assolutamente. E finalmente un traguardo che volevamo raggiungere è vedere il nostro album appeso sul muro del Wolf. Perché il Wolf appende gli album di chiunque vada a suonare là, e quindi vedersi il proprio album di fianco a tutti gli artisti che hanno suonato là sopra, tra cui Paolo Benvenu, Marta sui tubi, comunque gente che di roba ne ha da dire, ne ha da dire. E vedere il nostro album là di fianco è stato veramente un onore. Quello era l'obiettivo. Il muro del Wolf. La grande soddisfazione. Una tappa più che altro, dai. È una grande soddisfazione comunque per voi. Assolutamente. Certo. A proposito di concerti e di serate, ne avete in programma? Allora, in programma in questo momento no, anche perché... usciamo dalla presentazione comunque dell'album, sì, dalle varie date. Ovviamente sì, sì, siamo usciti dalla presentazione del nostro EP, che è durata quasi un anno praticamente, sì. Da un annetto che è uscito. E adesso pensiamo di fermarci un attimo, a dire il vero, perché come abbiamo detto prima... Esatto, un po' per causa mia, perché me ne vado 6 mesi in America. Sì, per colpa di questo essere... Per morire in studio, quindi. Sì, mi lascio la mia spalla, mi dovrò consolare. Tornerò il primo ottobre, quindi... Tu troverai un altro bassista il primo ottobre, quindi... Insomma. Spero di no, spero per voi di no. Comunque ci fermeremo un attimo in questi 6 mesi, abbiamo già delle altre idee in cantiere, cercheremo insomma di far maturare alcuni pezzi per il nuovo album, perché appunto il progetto è sempre quello di mai fermarsi ma sempre andare avanti, per cui insomma approfitteremo di questa cosa per cercare nuove ispirazioni e per finire alcuni lavori che avevamo lasciato un po' a metà. E poi insomma la tecnologia ci aiuta, come dico sempre, per cui insomma manderemo i provini, esatto, manderemo i provini a Tommy, esatto, e lui... esatto, io registrerò e poi invierò via email o altro mezzo multimediale. Siamo avantissimo. Avete già qualcosa di messo, di pronto, di preparato o qualcosina? Delle fasi beta, diciamo, di alcune canzoni. Le teste si muovono in continuo movimento. Allora vi strappo una promessa, posso? Certo. Ce lo venite a presentare in anteprima? Ma che bello che sarebbe. Io guarda, non dico mai di no. Quindi... un'esclusiva. Sottoscrivo subito. Prendi l'agenda, segnati. Beh, siamo in contatto, quindi io... No, assolutamente, guarda, con le tempistiche onore. Sono lui, tu torni a ottobre. Quando volete. Non troverà più il posto, quindi comunque c'è la lavora, quindi noi a settembre potremo già presentare. Così avremo... ma ci sono delle band che hanno due bassisti, sì, quindi dimmi. No, ma noi siamo no, io sono nell'intercambio. Allora, okay. Ci regalate questa esclusiva, allora? Sì, allora, certamente. Intanto ci regalate un'esclusiva acustica adesso, cosa ci fate ascoltare? Vi facciamo ascoltare sempre un altro pezzo del nostro secondo lavoro, che ricordiamo si intitola Elementi di disturbo. Questo pezzo si intitola Oltre il silenzio. Ok. Questa sera calda e umida, tra un libro ed una sigaretta che sono l'essenza di quel che farò e di quel che penserò, piano piano navigo. Che bello sto pezzo. Vorrei chiederti quello strumento come si chiama. Questo? Sì. È il chimes, si chiamano chimes. Questo è un investimento di mio padre. Mi ha detto: è ora che abbassi il volume della tua batteria. Ti regalo questa cosa perché potrebbe servirti, effettivamente. Insomma, papà ti è un fedele accompagnatore. Mio padre era batterista pure lui. Ah, quello c'è un motivo. Per forza, esce proprio dalle vene sta cosa. Non è, non è ereditaria. Si può, sì, non si può portare uno strumento del genere e non sapere che cosa serve. Vorrei dire che questo l'arrangiamento che avete fatto di questo pezzo è molto interessante, perché c'era il Tommaso che faceva da solista e Marcello e Max che gli rispondevano in continuazione. Era un passare la palla in continuazione musicalmente parlando, una cosa molto positiva. E poi c'era il nostro bassista Tommaso, anche lui, che chiudeva il cerchio. Pezzo molto bello, molto interessante. Io l'ho recensito come un pezzo molto live, che dà l'anima. Non so se siete d'accordo. Sì. Guarda, ci hai fatto un esame di questo pezzo che è veramente bellissima. Io ti ringrazio, anche perché insomma il lavoro che magari un musicista fa nei suoi pezzi viene comunque notato. Magari il più della gente dice bello, brutto, carina le parole, però quando il musicista ti dice mi è piaciuto quell'arrangiamento, mi è piaciuto come hai messo quale note, come si intrecciano... Questo è molto bello, grazie quindi. Bene, grazie a voi. Io ho fatto ho sentito le mie impressioni e le ho messe giù nella recensione, nella nostra redazione, e quello è il compito, secondo me, di una radio, anche di esplorare questi orizzonti sonori, chiaramente. Diciamo poi che suonando in questa maniera i pezzi li abbiamo riportati all'essenziale, come erano nati, quindi ritorniamo proprio a una fase... primordiale dei pezzi. Perché noi quando componiamo il più delle volte non ci chiudiamo, ci chiudiamo in sala prove, ma quello è un secondo momento. Il primo momento ci troviamo a casa, a casa di Marcello, a casa di Max o a casa nostra, e ci mettiamo lì a provare con le chitarre acustiche, il basso tipo attaccato a un amplificatore da chitarra, certo. Proprio molto, molto spartano, e iniziamo a girare dietro a due accordi. Da cosa nasce cosa, arrangiamento nasce arrangiamento, rifacendoci arriva la canzone. La fase live è la punta dell'iceberg, certo. Diciamo. Comunque tutto nasce live, la cosa bella che hai sentito tu, che questo pezzo poi soprattutto è stato un pezzo che è nato, penso che sia stato forse il pezzo più live. Sì, l'ho sentito, l'ho captato così. Perché c'è tanta effettivamente botta e risposta, c'è tanta comunicazione in questo pezzo qua. Io live godo come un matto su sto pezzo. Bravi Horizons, Enzo da Bologna. Enzo. Ah, ecco, grazie, questo Enzo. È mio padre. Questa è la bomba. Allora di San Lazzaro chi è? Beh, ragazzi, sono le 22:23, abbiamo il tempo per ascoltare due canzoni, ce la fate subito una? Cosa ci fate ascoltare? Sì, che poi facciamo, magari così ci diamo poi ai saluti e via discorrendo, insomma. Allora, vi facciamo la prima traccia del nostro di Elementi di Disturbo, che insomma l'abbiamo già sentita, sì, all'inizio, però ve la riproponiamo in radio version, acoustic version. Apposta per Blu Radio Veneto. Esattamente, grazie. Quindi facciamo Veleno. Ok. Pensiero entra dentro te e non fa niente se dici che sei ancora immune. Certamente avverrà, non hai la forza per combattere. Eh. faccia quello che amo solo dentro te. La mia lingua sarà pane. Dai, prendi quello che dirò come il tuo oro che fa risplendere la vita. E dimmi se pensi che il mio sangue sia veleno. Come vuoi e mi dispiace, un tuo futuro in me non ci sarà, io lo so bene che sarà difficile. Grida, sputa in faccia quello che solo dentro me, la tua lingua sarà vana, anche se una goccia su di me cadrà presto svanirà, non verrò del tuo veleno. Oh, oh, trovatene un altro di qui. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Siamo quasi arrivati alla fine, prima però c'è un saluto da fare, un saluto dai vostri fans marinensi, Lucio, Daniela, Chiara, Francesco e Martina. Li conoscete? Oh, sono i miei. Ma anche qui dovevi dire sono i nostri fans, dai, non si può. No? Marinensi. La mia ragazza, grazie, dovevi dire tutti quanti. Benissimo, Maurizio, sono le 22:29. Sì, purtroppo dobbiamo salutarci. Una cosa, volevo solo dire 30 secondi di questo pezzo. È un cadenzare ipnotico che si innesta in una melodia, la melodia del pezzo. Io l'ho sentito così, qua, in questa versione. L'ipnotizio, sì, cioè ipnotico, continuamente una nota che continua a martellare e poi gli mettete dentro giustamente la melodia. È molto il ritornello. Ipnotico il pezzo. Molto il ritornello. Il prossimo album te lo mandiamo così. Bene. Ci dai un paio di consigli. Esatto. Esatto. Assolutamente, okay. Guarda. Allora, che dire, io vi ringrazio veramente di cuore di essere venuti da Bologna. A te. Ma a grazie te, a voi, a tutta la redazione. E vi ho strappato già la promessa, quindi non serve che ve lo ridica. Sì, quindi esatto. Ci rivedremo presto, almeno quando sarete pronti. E io ringrazio appunto Tommaso Stanzani, Tommaso Avellini, Marcello Garreffa e Max Messina. E Luca che è in aereo. Basilica in aereo. Ovvero gli Horizons che sono venuti a trovarci questa sera, malgrado la festa, quindi anche loro hanno rinunciato a chissà quale serata bella, piacevole per venire qui e ci fa veramente molto piacere di averli avuti in acustico, in live. Grazie a te, grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi, grazie a tutti, veramente. Una splendida serata. Torneremo sicuramente. Assolutamente sì. Anzi, 3-4 volte, 5 volte. Verremo a mangiare volete, qua. Fate l'abbonamento. E romperemo mentre suoneranno gli altri, cose del genere. Eh beh, è sempre una cosa positiva. Il gruppo è gruppo in tutti i sensi, anche in questo praticamente. No, abbiamo scoperto una bellissima realtà che dà la possibilità di suonare a degli artisti emergenti. E non è una roba da poco, lo ripeto, veramente. Tutti quelli che ascoltano, telefonate, sentite Agostino, contattatelo, rompetegli le scatole perché lui è una persona giusta. Contattate tutta la redazione di Blu Radio Veneto. Confesso che non ti ho pagato, eh. No, infatti. La vostra amica Sara dalla provincia di Varese. Ciao mitici. Ciao mitica. Ciao Sara. E fermo immagine per la vostra amica, dice, insomma. Quindi l'ultimo messaggio. Benissimo. Velocemente, 30 secondi, ci dite sito, disco dove si compra, sì, contatti e via. Vi diciamo tutto. Noi ci chiamiamo ovviamente Horizons, www.horizonsband.com, www.myspace.com/horizonsband. Ci trovate anche su Facebook, Horizons HZ. Se volete sentire i nostri lavori, se volete una copia del nostro CD, ci mandate una mail, ci contattate in un qualsiasi sito. Noi ve lo portiamo a casa e direttamente tutti quanti suoniamo a casa vostra. E con un mazzo di fiori anche, con un mazzo di fiori, quindi contattateci, il CD ve lo porteremo a casa e suoneremo da voi. Esatto. Allora, prima di sentire l'ultimo pezzo live, Maurizio, io ti ringrazio, ti saluto. Grazie a te Agostino, grazie agli Horizon, come possiamo chiamarli, come vogliamo chiamarli. Prossima settimana avremo altri appuntamenti, non me li ricordo. Io mi ricordo il mio, dico il mio. Tu, allora. Allora, giovedì prossimo, sempre alle ore 21, un altro gruppo, questa volta è qui della zona di Padova, si chiamano Spazi Immensi, che verranno a presentarci appunto il loro disco che hanno da poco prodotto. Allora, cosa ci fate ascoltare come ultima canzone? Vi facciamo ascoltare un altro pezzo tratto dal nostro secondo EP, Elementi di Disturbo. Questo è un testo assolutamente molto, molto romantico e soprattutto molto intimo. E abbiamo il piacere veramente di farlo perché ci emozioniamo tutte le volte. Facciamo Fermo Immagine. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao, ciao. Blu Radio Veneto. Come fumo, lentamente scivoli via. Sei maestra del mio essere, tu sei stata dolce. Tenta vivere per regalare a me i sogni tuoi. E pongo le armi, sei stanca e non mi parli, cosa ti sfida lasciandoti immobile? Sorrido a fatica, lasciando niente al caso. Voli via con ogni certezza e lasci scia in un fermo immagine. Vuoi decidere di raccontare? Un po', cercando dei momenti in cui rinascere, liberare il peso dei perché. Radio Sera. Blu Radio Sera.